non urtare, accarezzavano l'acqua con le mani, ne leccavano il sale. A quell'epoca andavano sui cavalli, leggevano il libro, si sentivano chiamare. Attraversavano gli Urali, credevano un Dio per ogni cosa che non potevano spiegare. Conoscevano il vento e la fame, a quell'epoca nessuno sapeva davvero cucinare. Non sapevano dove andare, ma si sentivano chiamare. E per me che devi viaggiare, e per me che devi andare. In un eterno ritorno, venivano dal centro della terra, andavano sui vulcani, non avevano occhi, non avevano unghie, ma la pelle di tanti colori. Nessuno li aspettava, nessuno li voleva, ma sapevano cantare, sentivano chiamare. E per me che devi